Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Allora Nicoletta, oggi voglio invitare te e tutti i nostri ascoltatori a fare molta attenzione ad alcuni gesti quotidiani che riguardano il nostro denaro, uno in particolare per dirla tutta. Ed è quel gesto che ci vede in diverse situazioni della giornata tirare fuori il portafoglio. Soprattutto in questo periodo è abbastanza facile. Esatto, non solo per lo shopping natalizio. E insomma, tirar fuori il portafoglio, il portamonete per pagare qualcosa, per una spesa importante, pensiamo per l'appunto ad un bel regalo di Natale, ma anche per un piccolo capo di abbigliamento, ma anche per un caffè, un quotidiano. Provate a fare attenzione oggi a tutte le volte che vi capiterà. E provate a pensare anche a tutte le volte che vi è capitato nell'ultima settimana. Sotto quale cifra vi sentite un po' in soggezione, trovate eccessivo di fronte ad un esercente chiedere di pagare con bancomat o carta di credito? Oppure in quali casi vi è capitato e vi siete sentiti rispondere di no? O avete trovato di fronte a voi una faccia un po' scocciata? Perché qualche volta capita anche che succeda questo. Sta facendo molto discutere l'emendamento inserito in legge di stabilità che prevede la soppressione del limite di 30 euro per l'accettazione da parte degli operatori del commercio dei pagamenti con moneta elettronica e sanzioni per chi non installa il cosiddetto POS, proprio la macchinetta per fare il pagamento. Ne parliamo anche noi con la nostra prospettiva Cuore e Denari, ricostruendo le posizioni di chi è pro e di chi è contro. Voi ripercorrete con attenzione la vostra settimana di consumatori e all'800 24 00 24, oppure con un messaggio su WhatsApp al 349 238 6666, diteci qual è la spesa più piccola che negli ultimi 5 giorni avete fatto con bancomat o carta di credito. Deborah, tu hai parlato di gesti quotidiani. Nella seconda parte della trasmissione parleremo invece di segni. Ci sono segni che non lasciano segni e altri invece che possono segnare una vita. Ne parliamo oggi in questa puntata in cui diamo voce a quelle strane sensazioni, a volte sfumate, quindi un po' difficili da descrivere con precisione, che ciascuno di noi può sperimentare sulla propria pelle. È il caso di dire il formicolio, le punture di spillo, i crampi o tiranervi, come li chiamano alcuni, o ancora la sensazione di addormentamento, di freddo, si dice mani fredde, cuore caldo, sarà vero poi, o ancora l'apparente temporanea perdita di sensibilità e di forza. Ne avete esperienza? E come li avete spiegati? Avete dato la colpa al freddo, alla postura, allo stress, a difetti della circolazione? Avete pensato invece che potessero essere scherzi della mente? Parliamone. 800 24 0024 per prenotare i vostri interventi. Gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone. Allora Nicoletta, oggi ti voglio presentare una mia amica. Sei d'accordo? Mi piacciono molto, gli amici degli amici diventano miei amici. Luisa ha una gelateria super nel mio palazzo. Ne hai parlato tante volte. Esatto, noi siamo diventate amiche perché è una donna che io definisco sempre con degli attributi non indifferenti. È un'imprenditrice che davvero lavora moltissimo, fa un prodotto di grande qualità. In questi giorni per la pausa invernale le serrande della gelateria sono abbassate, con grande dispiacere nostro, di tutti i vicini. Ma lei, che non si ferma mai, ha preso carta e penna e ci ha scritto. Ti faccio sentire. Sono sinceramente convinta sia un esempio di civiltà poter pagare qualsiasi importo con bancomat o carta di credito, anche l'euro del caffè. Ma non vorrei che alla fine lo pagassimo tutti, 1,10 euro, per rientrare nei margini attuali. Perché non parliamo della ricaduta economica sugli esercizi come il mio, che raramente scontrinano più di 30 euro? So che c'è parecchio astio da parte dei clienti, ma spero che capiscano che anche pochi centesimi per importi piccoli non sono ininfluenti sui margini di un esercizio. Ci sono anche i canoni mensili e, ripeto, i miei scontrini non sono di centinaia di euro come per l'abbigliamento o l'elettronica. Questo è il vero problema. Invece il messaggio che passa è che il disagio nell'accettare la formula dei pagamenti elettronici sia dovuto solamente all'impossibilità di accumulare nero. Davvero non è così. I problemi veri sono altri. In realtà la mail era molto più lunga, articolata naturalmente per ragioni di spazio. Ho dovuto sintetizzarla, ma insomma ci serve per dare il via al tema di oggi. Lo avrete capito, è quello dal quale si discute tanto. Parliamo di quell'emendamento inserito in legge di stabilità che prevede la soppressione del limite di 30 euro per l'accettazione da parte degli operatori del commercio dei pagamenti con moneta elettronica. Un emendamento che prevede anche delle sanzioni per chi non installa il POS. Quindi per brioche e cappuccino, se io voglio pagare con il bancomat al più presto, gesto, il gestore di quell'esercizio non potrà rifiutarsi. Sapete bene che questo è un tema molto divisivo e onestamente, per quanto si possa essere favorevoli alla libertà del cittadino di pagare come vuole, è anche vero che per i piccoli esercizi commerciali, per piccole transazioni, è un onere davvero significativo. Allora ne parliamo con Esmeralda Giampaoli, presidente della FIEPET, Federazione Italiana Esercenti Pubblici e Turistici di Confesercenti. Presidente, buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Benvenuta. E buongiorno anche a Maurizio Pimpinella, presidente dell'Associazione Italiana Istituti di Pagamento e di Moneta Elettronica. Dottor Pimpinella, buongiorno. Presidente, buongiorno. Buongiorno a tutti voi, buongiorno. Diverse cariche. Allora, dottoressa Giampaoli, presidente Giampaoli, inizio con lei. La vostra posizione su questo emendamento la conosciamo, l'abbiamo letta, l'abbiamo capita, ma facciamo capire anche i termini della questione a tutti. Ci fa proprio un esempio. Se un barista accetta, vedo già che in tanti ci stanno scrivendo, mia moglie ha l'edicola, il bar, il caffè, tantissimi esempi ce li stanno facendo gli ascoltatori, ma se un barista accetta di farsi pagare con il bancomat tutti i caffè della giornata, quanto gli costa? Benissimo, intanto devo dire che concordo con le osservazioni che avete fatto, cioè il problema si pone essenzialmente per tutti quegli esercizi caratterizzati da pagamenti di piccola entità, penso fra gli 1 e 10 euro, ma di grande volume, quindi come tabacchi, bar, altri che hanno comunque, come dire, commerciano in cose di valore piuttosto piccolo. Vi do due numeri. Secondo le nostre statistiche, l'aggravio che ci sarebbe per gli esercenti, stabilita appunto l'obbligatorietà del POS, potrebbe raggiungere, secondo una prima stima, circa 1.700 euro l'anno per un'impresa, più o meno distribuiti in questa maniera: 180 euro costi di installazione, un canone annuale POS che mediamente si aggira intorno ai 150 euro. Costo di installazione, nuova linea telefonica DSL, se vogliamo che il POS funzioni sempre, perché poi qualche volta ci viene contestato la linea non funziona da parte di qualche esercente, a volte è una contestazione strumentale, qualche volta è anche vero che le linee non sono a posto, però costa circa 80 euro e poi costi di formazione, commissioni 650 euro, quindi vuol dire che se noi spalmiamo questo aggravio di costo su base anno abbiamo una incidenza mensile che si aggira intorno ai 140 euro. E questo qui diciamo che è solamente la parte meramente monetaria. Facciamo anche un altro esempio: mediamente i piccolissimi esercizi hanno 1-2 addetti nei picchi massimi di affluenza. Voi immaginate con la tecnologia attuale andare al bar e pensare di pagare il vostro caffè con il POS alla funzionalità che noi conosciamo, vuol dire che la persona che è in fila dopo di noi per prendere il caffè lo prende dopo 5 minuti e nel giro di una settimana io ho perso gran parte della mia clientela perché non sono in grado strutturalmente di far fronte anche proprio alla logistica, perché in realtà la tecnologia, quella cosiddetta contactless, non è ancora molto diffusa. Molto diffusa, sì. Appannaggio della grande distribuzione e comunque insomma è chiaro che noi non quando dice favorevoli o contrari, assolutamente favorevoli per le ragioni che anche prima la signora che ha scritto la mail sosteneva, contrari nel momento in cui tutto l'onere burocratico e economico dell'operazione passa sulle nostre spalle. Ecco, quindi voi siete contrari se la situazione anche degli oneri che dovete sostenere rimane quella attuale. Una modalità per superare tutti questi problemi potrebbe essere quella di fare un'estensione quanto più possibile della cosiddetta tecnologia contactless, cioè il fatto di far passare sopra un lettore un bancomat che faccia un pagamento straveloce. Adesso noi lo banalizziamo così, questa modalità di pagamento, poi magari Pimpinella ci dà qualche dettaglio in più. A quali condizioni sareste disponibili a, come dire, dialogare su questo emendamento? Adesso bisognerà vedere anche se a livello parlamentare, se questa battaglia si estenderà, se passerà secondo questa versione, appunto, questo emendamento, se sarà rivisitato e corretto. Ma dottoressa Giampaoli, la battaglia è aperta. A quali condizioni ci stareste, appunto, a fare in modo che i pagamenti di importo inferiore ai 30 euro possano essere sempre permessi al cliente con la moneta elettronica? Ma è chiaro che se vogliamo che una regola assolutamente di civiltà, perché comunque in altri paesi sappiamo benissimo che lo stato dell'arte è decisamente più avanzato, però è chiaro che ad esempio alcune agevolazioni fiscali, alcuni incentivi che rendano questo strumento conveniente anche per gli esercenti potrebbero essere la strada giusta per renderlo appetibile da tutte le parti, cioè se il consumatore che ha una facilità di pagamento perché non porta denaro contante con sé, dall'altra però come dicevo anche prima, cioè bisogna trovare una strada per cui questa cosa diventa incentivante anche per il commerciante, perché veramente innanzitutto le normative dovrebbero secondo me prendere ad oggetto lo stato dell'arte, quindi specialmente una gran parte delle attività commerciali, quelle piccole e piccolissime in particolare, spesso non hanno questa tecnologia, nel senso penso all'edicolante, difficilmente. Infatti, l'edicolante arriva. Sono a proprio gli edicolanti peraltro che ci stanno anche chiamando stamattina, forse anche su sì, WhatsApp. Anche benzinai, sì, parecchi esatto. Benzinai che ci stanno scrivendo. Allora, quindi Gianpaoli che poi deve andare al traffico? Assolutamente, nel senso adeguiamo il gap tecnologico e in un secondo momento attraverso incentivi e comunque sia correttivi della pesantezza per i commercianti proviamo a mettere in atto un percorso di uniformazione a quello che sono standard di altri Benissimo. Paesi. Vediamo allora come può essere ridotto questo gap tecnologico e naturalmente rendere anche questa riduzione sostenibile economicamente parlando per i commercianti di questo piccolo taglio, definiamoli così. Dopo il traffico, subito la parola a Maurizio Pimpinella, presidente dell'Associazione Italiana degli Istituti di Pagamento di Moneta Elettronica, e poi anche la parola agli ascoltatori. Vedo già pronti Roberto da Parma, Marco da Bolzano, tanti su Twitter, sui nostri social network. A tra poco. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su Audi.it. Vi presenta. Cuore e denari. Io sono perché ci sia una libertà del cittadino di pagare come vuole. Per me è appunto la libertà di scelta del cittadino. E bisogna metterlo in condizione di scegliere, perché ognuno decide se uscire con 10 euro in tasca o con 1000 euro in tasca la mattina. Rischio della rapina, rischio del furto, ma noi non consideriamo i costi del contante, sono invisibili. Ma sai quanti edicolanti sbagliano e dai il resto e quanto ci perdono? Questo emendamento è un emendamento che ovviamente rompe un sistema e poi dobbiamo vederlo proprio in un altro modo. Ed è tutto ovvio che andiamo per il futuro dei pagamenti e immateriale. Questo emendamento rompe il sistema, diciamo che i commercianti si sono un po' rotti le scatole di tutto questo gran parlare di questo argomento per le modalità con cui viene posto. Cerchiamo di fare un lavoro costruttivo. Allora, Maurizio Pimpinella, presidente dell'Associazione Italiana Istituti di Pagamento di Moneta Elettronica. Adesso vorrei anche fare una batteria di ascoltatori perché, come sempre, ci piace animare il dibattito anche con il loro contributo pratico e concreto di operatori del settore. Ma, come diceva Luisa nella mail che ci ha mandato, il messaggio che passa è che non vogliamo fare lo scontrino perché proprio vogliamo evadere, l'ha molto sintetizzata così, senza trarre conclusioni così poco rispettose per queste persone. Andiamo al nocciolo dei costi, come prima ci indicava anche Esmeralda Giampaoli di Confesercenti, perché anche lei, Pimpinella, ammetterà che per transazioni piccole farle pagare con il POS, appunto con l'attuale struttura commissionale, per certi esercenti non va bene. Allora, secondo lei le banche che tipo di soluzioni potranno nel breve termine, perché se questo emendamento va avanti, piuttosto che far litigare tutti bisognerà trovare delle soluzioni concrete, che tipo di soluzioni potranno proporre appunto al mondo del commercio per fare in modo che tutti siano invogliati a far pagare con la moneta elettronica appunto anche le piccole transazioni? Pimpinella, lei come la vede tutta questa faccenda? Buongiorno, sicuramente l'ultimo diciamo intervento credo dell'edicolante sia poi quello più esaustivo. La collega ha parlato di sicurezza, di civiltà, ma la parola d'ordine in questo momento è veramente fare chiarezza su questo emendamento che è di natura molto tecnica. Sicuramente è oggetto di una regolazione a livello europeo, è un emendamento che a mio parere sta creando confusione nel mercato, perché così come formulato nella sua applicazione potrebbe essere addirittura retroattiva. chiedo scusa ma sono senza voce, le commissioni deve prendere un po' di echinacea per la voce, guardi, adesso la affido alla mia collega e non me lo l'erisimo, eccolo qua, chiusa parentesi Pimpinella, andiamo. Ovviamente quando si parla per me l'effetto dell'obbligatorietà porterà un effetto contrario. La cosa fondamentale secondo me è incentivare i cittadini e sicuramente gli esercenti da parte dello Stato, ma tutto ciò deve partire sicuramente nell'accettazione dei pagamenti nella pubblica amministrazione al fine di fornire servizi più efficienti ai cittadini. Cioè lei dice l'esempio deve partire intanto dall'alto in modo tale che poi la ricaduta sia anche in termini di, come dire, atteggiamento su tutto il mondo del commercio. Non ho capito cosa intende. Certo, perché è molto semplice, il business dei pagamenti così strutturato è un business di volumi, più salgono i volumi più si riducono i costi fissi, ok? Quindi all'aumentare delle transazioni che sicuramente saranno nel mondo della pubblica amministrazione, ovviamente tutti i prestatori di servizi di pagamento potrebbero fornire alcuni servizi ad un costo sostanzialmente anche in norma qua della la collega del bar. Perché sostanzialmente i costi, ovviamente io non voglio entrare nella materia dei costi perché i costi sono veramente difficili da spiegare, perché dovrei parlare con terminologia talmente tecnica. Sì, no, vabbè, diciamo che la Giampaoli ce l'ha spiegati molto bene, quelli che sostiene un esercizio commerciale. Ma potrei subito dire che l'80 euro del collegamento della linea DSL l'esercente la utilizza anche per il suo punto internet che ha nel punto vendita. Potrei dire che invece del POS fisso potrebbe utilizzare il POS mobile, oppure potrebbe utilizzare il suo smartphone, perché è inevitabile che la digitalizzazione avverrà attraverso il mobile payment. Quindi tra poco materializzeremo le carte di plastica e le porteremo nei wallet, nei cellulari, e quindi il cellulare diventerà il device per accettare i pagamenti. Quindi il mondo si sta evolvendo. Ecco, esatto, e quindi insomma è solamente una questione di tempo, questa polemica magari fra un anno avrà, come dire, dei contorni completamente diversi, visto che la rivoluzione digitale è talmente dirompente ed in corso che c'è poco da fare resistenza adesso, dice lei. Siamo di fronte a una rivoluzione antropologica nel mondo dei pagamenti. I signori Apple, Google, Facebook e Amazon sono, diciamo, interlocutori che stanno gestendo il mondo dei pagamenti, non sono più social, ok? L'abbiamo visto, sono istituti di moneta elettronica, quindi loro ci stanno aiutando a questa digitalizzazione. Adesso cosa sta avvenendo però? Con questo decreto cosa avviene nel nostro mondo? Comporterà sicuramente l'obbligo a prestatori dei servizi di pagamento di fornire i propri servizi sotto costo, come abbiamo fatto nel settore dei distributori di benzina per un certo periodo. Allora, ogni modello aziendale ha sostanzialmente delle logiche, dei driver di business, ok? Che in questo modo sicuramente farà soltanto che contrarre l'operatività presso i punti vendita. Quindi la cosa importante però è che questa materia deve essere demandata alla Banca d'Italia e al Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'ambito dell'attuazione del regolamento del 2015 del 751. E quindi non lei fare un emendamento blitz nella legge di stabilità, sostanzialmente avere un regolamento. Va bene. Questa è una questione di mera politica, Pimpinella, che noi a cuore denari lasciamo fuori volentieri, però insomma la ringrazio per avercela spiegata. Glielo faccio fare dopo, volevo sentire velocemente Gianni da Rimini, sennò gli ascoltatori stanno lì in attesa e penseranno che li chiamiamo per scherzo. Gianni, ce la fa in 10 secondi a dirci la sua? Guardi, mia moglie ha un'edicola. Il discorso dell'edicola ha il 19% di margine su tutto quello che riguarda l'editoria. Se una persona che entra dentro in edicola e prende un giornale da un euro, dove noi prendiamo 19 centesimi, voglio dire, paghiamo col banco, ma la transazione costa più o meno quello, lei dice addio margini, Gianni, addio, l'abbiamo capito il volo. Per forza, dobbiamo appunto rendervi più agevole questo mondo. E adesso dall'edicola al nostro GR, a tra poco. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Ho deciso di indire un giubileo straordinario. Radio 24 vive l'inizio del giubileo in diretta. L'8 dicembre non perdere il nostro speciale sull'inizio del giubileo straordinario. Con i nostri inviati dal Vaticano, le voci degli organizzatori, le opinioni dei cittadini, gli approfondimenti sugli sviluppi del sinodo e dello scandalo Vatilix. L'8 dicembre segui le storie e le voci del giubileo insieme a noi alle 17 su Radio 24. Sarà un anno santo della misericordia. denari. Parliamo ancora di soldi, gli ultimi minuti di Cuore Denari, della parte di denari dedicati alla come dire, grande polemica del momento, e cioè parliamo di commercianti che, secondo un emendamento inserito in legge di stabilità, ne abbiamo spiegato tutta la cronistoria nella prima parte del programma, dovrebbero essere più o meno, come dire, costretti ad accettare un pagamento con moneta elettronica qualora un cliente lo chiedesse. Quindi si va al bar a prendere brioche e cappuccino, si spendono poco più di 2 euro, e allora, secondo questo emendamento, al più presto, anche se poi è molto più ampio, il contenuto è molto più articolato, più avanti sarà obbligatorio per un commerciante, per un esercente, un barista o un altro esercizio commerciale di altro tipo, appunto, accettare questa richiesta da parte del cliente. Ma naturalmente ci sono tutti i pro e tutti i contro. In termini di posizione abbiamo sentito quella di Confesercenti da parte di Esmeralda Giampaoli, presidente della FIEPET, Federazione Italiana Esercenti Pubblici e Turistici, che ci ha fatto un quadro molto chiaro di tutti i costi che un esercizio deve sostenere, appunto, per naturalmente sostenere questo tipo di pagamenti. E poi stiamo ascoltando anche Maurizio Pimpinella, presidente dell'Associazione Italiana Istituti di Pagamento e di Moneta Elettronica, soprattutto per fare un punto sulle soluzioni che un commerciante disponibile a questo cambiamento può adottare, naturalmente, ma chiaramente a costi accettabili per lui. Volevo sentire ancora magari un ascoltatore. Abbiamo sentito l'edicolante prima, che ci diceva, insomma, per un giornale come faccio io ad accettare un pagamento di questo tipo, i margini se ne vanno immediatamente, già ci prendo pochissimo su quella vendita, se poi ci devo caricare anche il costo della transazione elettronica, addio guadagno per noi. Sentirei velocemente Marco da Bolzano, poi gli ultimi due flash di commenti da parte dei nostri ospiti, poi passiamo alla parte di Cuore. Marco, benvenuto. Sì, buongiorno. Sì. Niente, io volevo dire che sono molto favorevole al pagamento in moneta elettronica e non vedo l'ora, sia possibile, pagare un caffè e anche comprare un solo giornale col banco o con la carta. Le capita di chiederlo al bar, Marco, all'edicola, e si sente dire no, di no? Come funziona? Io sono autista di professione, tante volte mi fermo negli autogrill e lì non c'è nessun problema. Certo. Appunto, catene. Per i volumi, per quelle reti, per quelle catene, per quelle insegne, per quegli esercizi commerciali, chiamiamoli così, che chiaramente fanno volumi. Dei volumi discreti, è ovvio che per loro i costi sono accettabili, Marco. Sì, diciamo che mi sento in soggezione a pagare sotto 10 euro. Sa che ha usato un po' in difficoltà a chiederlo, no? Qualche volta, come se chiedessimo chissà che cosa. Invece si va negli Stati Uniti, e questo non da ieri, non neanche dall'altro ieri, ma da molto tempo, anche per una piccola colazione da qualunque parte non c'è nessun problema ad accettare, appunto, la carta di credito. Grazie Marco. Ultimo commento, Maurizio Pimpinella, prima l'avevo interrotta brutalmente, la faccio completare il suo ragionamento sulle modalità. Rispondiamo a quegli imprenditori, commercianti, che invece dicono: noi siamo assolutamente d'accordo su questa che riteniamo essere una battaglia anche di civiltà, ma noi con i costi non ci siamo, come possiamo superare questo problema? Che cosa ci mette l'industria bancaria e finanziaria a disposizione per aiutarci in questo? L'industria bancaria mette a disposizione tutto il supporto tecnico istituzionale per aggiungere sostanzialmente a quello che diceva l'ascoltatore, poter pagare in libera circolazione. Ovviamente una cosa che ripeto però al mondo dei commercianti è la sicurezza. Quanto costa il trasferimento del denaro? Mm-hmm. Quanto incide in un'edicola e in un benzinario subire una rapina? Quanto incide per un cittadino non portare denaro contante in tasca? Cioè, queste sono le domande che secondo me, a mio avviso, dobbiamo porci. E quindi, insomma, se un esercizio commerciale contesta un po' l'approccio al problema, lei dice: allora fatevi due conti, e forse vi costa di più tenere tutto questo contante in cassa rispetto ad accettare con un po' più di elasticità mentale il pagamento con la carta elettronica, con la moneta elettronica. Ma certo, ma anche perché noi dobbiamo pensare anche a un altro mondo. Il mondo del piccolo commerciante, così quella della grande impresa, il sistema di pagamento diventa un costo di gestione. Come lo è la bolletta dell'Enel, com'è il collegamento alla linea Inter. Intanto, per definizione, questi costi vengono portati in detrazione, perché comunque sono costi di gestione, sia la commissione della carta di credito, sia l'acquisto del canone del POS, giusto? Perché è un servizio che fa parte dell'impresa. Seconda cosa, però, Quello che avviene oggi, ed è a volte improprio utilizzare la moneta, quando si parla di moneta elettronica, per esempio nel tabaccaio, il grande salto culturale è stato quello che sostanzialmente oggi si può pagare una bolletta con un banco, ma con una carta di credito, che è una facilitazione enorme per il cittadino in questo momento di crisi finanziaria, perché sappiamo che con il bancomat non porta in giro moneta contante, quindi rischio di rapine al bancomat, giusto? Con la carta di credito ho una dilazione di pagamento media di 25 giorni, quindi un autofinanziamento di 25 giorni sulla carta di credito. Quindi sostanzialmente il beneficio c'è da parte del cittadino. Ecco perché i cittadini stanno spingendo molto di più, perché più facciamo cultura nell'utilizzo della moneta elettronica e più il cittadino chiede di pagare anche per piccoli importi. Allora, Pimpinella, è un tema che certamente non chiudiamo qua oggi. Noi facciamo una cosa, rinviamo questo dibattito a quando avremo un quadro completo della legge di stabilità, vedremo che fine avrà fatto questo emendamento, se ne farà parte definitivamente, se prenderà altre strade, se assumerà altre versioni. Noi vi richiameremo allora, sia Pimpinella che Smeralda Giampaoli, così come sentiremo anche tutti gli ascoltatori che vedo che hanno apprezzato questo dibattito e tutti hanno una loro idea precisa sull'argomento. Detto questo, grazie a tutti e noi adesso possiamo affrontare il secondo tema di Cuore Denari. Parliamo di segni, la palpebra che balla, il braccio che formicola, la gamba che sembra temporaneamente addormentata, il piede che non risponde o ancora la mano fredda e intorpidita, la sensazione di avere meno forza. Sono sensazioni, disagi che possono variare per intensità e durata, a volte anche difficili da descrivere con precisione. Proveremo a farlo oggi, guidati da un grande esperto che ci aiuterà a capire quando è lecito fare finta di nulla e quando invece è necessario considerarli con più attenzione. Perché, come anticipavamo in apertura, ci sono dei segni che non lasciano segno e altri invece che possono segnare una vita. In studio con noi abbiamo oggi il piacere di avere il professor Elio Clemente Agostoni, che è direttore della Neurologia e Stroke Unit all'ospedale Niguarda Cagranda di Milano. Buongiorno professore. Buongiorno. Professore, sento, non sento, si muove, non si muove, questo è il dilemma, o meglio la domanda che a volte ci poniamo di fronte al manifestarsi di segnali o di sensazioni che generano, specie se si ripresentano, un po' di apprensione. Ne ho citati alcuni proprio per sottolineare che stiamo affrontando un ventaglio di sintomi tra loro molto diversi. Allora io, professore, se lei mi aiuta, cercherei di raggrupparli per categorie tra virgolette omogenee, così riusciamo a raccogliere tutte le informazioni necessarie. Partirei da tutte quelle strane sensazioni che avvertiamo e di cui non siamo neppure sicuri, tanto che ci chiediamo se non possano essere scherzi, no, della mente. Penso al braccio intorpidito, alla mancanza di forza e anche a quella sensazione di formicolio, punture di spilli. Bene, innanzitutto io credo che sia necessario, per un tema difficile come questo, fare una premessa di metodo che ci permetterà poi di capire meglio. La medicina è basata su alcuni concetti importanti che sono le evidenze scientifiche. Non sempre le evidenze scientifiche sono in grado di rispondere a tutte le nostre domande. Nel caso specifico dei sintomi che lei ha accennato, occorre una ulteriore precisazione. In medicina il metodo è quello di distinguere i sintomi, quindi la soggettività, dai segni, quindi dall'obiettività. Nel concetto di sintomo e quindi di soggettività è presente la descrizione, quindi la narrazione, il racconto, quello che noi chiamiamo anamnesi, e che dipende naturalmente da una serie di fattori culturali, ma non solo, ma anche di vissuto del momento della persona che li racconta. Da un punto di vista dell'obiettività, quindi è il medico che deve raccogliere le informazioni provenienti dall'anamnesi, sistemarle in capitoli fissi che sono la loro correlazione con l'anatomia, quindi la struttura del cervello in questo caso, e con la funzione. Benissimo, se noi siamo in grado di fare questa correlazione, abbiamo una risposta coerente. Quando non siamo in grado di fare questa correlazione, navighiamo in un complesso meccanismo in cui non possiamo più applicare degli schemi, ma dobbiamo applicare la logica, l'ascolto e la capacità di comprendere le sfumature che le persone raccontano. Quindi questa è una premessa, direi, essenziale. Essenziale. Professore, abbiamo subito i nostri ascoltatori. sono in attesa già da un po'. Abbiamo Massimo dalla provincia di Rovigo e Antonio da Padova. Fatte le dovute distinzioni e precisazioni del professor Agostoni. Massimo, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno, io sono Massimo, telefono provincia di Rovigo. Sì. Io ho le dita delle mani che quando c'è una stagione, diciamo una media stagione, diciamo autunnale o invernale, che c'è un po' freddo, diciamo così, diventano leggermente bianche e si hanno un po' di formicolio. Però questo c'è solo quando c'è una stagione umida. Se c'è un freddo anche di 10 gradi sotto zero e la stagione è asciutta, questo non mi succede. Ecco, volevo chiedere al professore... È proprio l'umidità che fa scattare ad alcuni, fa arricciare i capelli, esatto, e invece a, noi. A Massimo formicolano le dita e diventano bianche. Professor Agostoni, segni e sintomi questi che possono aiutare il medico a aiutarlo molto e soprattutto... Ma tornando alla premessa che ho fatto prima, nel racconto emerge uno spartiacque importante che è la temperatura, cioè il freddo che fa diventare, immagino, la punta delle dita di un colore diverso, quindi biancastre, e anche quando evidentemente potrebbe mettere le mani nell'acqua fredda potrebbe succedere la stessa cosa, se non peggio. Questo è un fenomeno che colpisce entrambi gli arti superiori distalmente, quindi le mani, ma non è ascrivibile ad un problema neurologico, è ascrivibile ad un problema circolatorio. Esiste un fenomeno che si chiama fenomeno di Raynaud, dove il microcircolo, quindi i piccoli vasi, hanno una reazione di vasocostrizione potente al freddo e questa condizione è internistica, diciamo, non è una malattia neurologica, è un segno importante, perché in questo caso abbiamo un sintomo che è il formicolio, esatto, e un segno che è il pallore bianco delle mani. Ecco, vedete come si compone bene il nostro abbiamo argomento. Già imparato, vedi, segni e sintomi, e spesso si fa confusione. Professor Agostoni, lei ha sottolineato, è una situazione che compare in ambedue le mani, quindi può essere utile anche per i nostri ascoltatori provare a pensare se i sintomi o i segni compaiono in entrambe le mani, in entrambe le gambe, sono bilaterali o monolaterali. È corretto? Cioè, fa la differenza se si avverte un problema solamente da una parte? Io dico una mano, ma posso riferirmi a un braccio, a una gamba, a una parte del corpo e non all'altro o entrambe? Fa decisamente la differenza da un punto di vista della correlazione sintomo e anatomia. Voi sapete tutti che il cervello funziona in modo incrociato, tutto quello che noi facciamo con l'arto superiore sinistro è condizionato, diciamo, è guidato dal cervello di destra e viceversa. Queste vie si incrociano e nel midollo spinale invece si riuniscono a livello alto. Già la bilateralità piuttosto che la monolateralità ci indica la correlazione anatomica, o meglio, ovvero mano sinistra, cervello destro, quindi dobbiamo pensare al cervello. Invece bilateralità dobbiamo pensare al midollo spinale. Questa è la prima grossa differenza nell'ambito delle condizioni neurologiche. Grazie, mi aiuta a fare anche un'altra differenza. Quando noi avvertiamo tutti questi piccoli problemi, diamo spesso anche la colpa alla circolazione. Allora ci chiediamo, ma sarà il cuore o sarà il cervello? C'è un modo semplice, non per sostituirci naturalmente al medico, ma per avere un po' delle indicazioni di massima? Ma direi che se la differenza che dobbiamo fare è quella tra cuore e cervello, per esempio parliamo del formicolio all'arto superiore sinistro, in questo caso, che può essere il portato anche di un problema cardiaco acuto, però di solito nel problema cardiaco si associa il dolore toracico, mentre invece nel problema neurologico è difficile che solo l'arto superiore sinistro sia colpito, anche se è possibile, ma in questo caso non abbiamo la componente dolore. Quindi il primo momento differenziale, diciamo così, è costituito da il dolore che fa la differenza. Questo per fare un esempio, certo, tra cuore e cervello. Allora abbiamo Antonio che ci chiama da Padova all'800240024, poi leggiamo ancora anche qualche WhatsApp che sta arrivando. Antonio, benvenuto, buongiorno. Sì, buongiorno. Ascolti, volevo chiedere al professore, io soffro di un'artrite sieronegativa in una fase iniziale, adesso è circa una settimana che ho un formicolio continuo sull'indice e il medio della mano destra. Sì. Antonio, magari questa è una richiesta molto dettagliata, insomma, professore, naturalmente le telefonate dei nostri ascoltatori offrono ai nostri esperti l'opportunità per dare delle informazioni a carattere generale, perché per radio non si può certo fare diagnosi, ma che cosa le suggerisce la telefonata del nostro ascoltatore? Mi suggerisce l'artrite reumatoide, se ho capito bene, la malattia di base di cui il paziente, di cui l'ascoltatore soffre. Nell'artrite reumatoide ci possono essere, per esempio da un punto di vista neurologico, io vi parlo di questo, sintomi come quello che ha descritto l'ascoltatore, che possono essere dovuti anche a una neuropatia periferica, quindi a un coinvolgimento dei nervi periferici nell'ambito di una malattia sistemica come l'artrite reumatoide. Quindi il consiglio pratico che do a questo ascoltatore innanzitutto è quello di andare a farsi vedere dal medico e poi eventualmente fare degli esami per capire se esiste questa neuropatia periferica, quindi l'elettromiografia in questo caso, oppure se le cause sono diverse. Stiamo cercando di fare chiarezza, di venire a capo di quei sintomi, di quei segni che generano un po' di preoccupazione, spesso perché non ne intuiamo subito la causa, ci chiediamo se possono essere uno scherzo della mente, causati invece dal freddo, dalla circolazione, da posture sbagliate. Il formicolio è un classico, basta quante volte abbiamo magari avvertito un formicolio al piede, proprio perché eravamo magari sedute con le gambe intrecciate, come faccio io, e poi sbattendo un po' il piede il formicolio va. Ma professore, abbiamo poi fatto una distinzione tra un sintomo che si manifesta in entrambe le braccia, in entrambe le gambe, o invece solamente in una parte del corpo. Ci sono invece altri sintomi che direi tornano con una certa frequenza, come a darci appuntamento. Pensa a quella sorta di frenesie che molte persone avvertono alle gambe, col desiderio di muoversele, e che torna puntualmente nel momento in cui ci si corica, quindi disturba l'addormentamento. Si chiama sindrome delle gambe senza riposo, è un problema neurologico, professore? È decisamente un problema neurologico, anche se in parte ancora controverso nella sua essenza, però è un problema neurologico e ne sappiamo ben distinguere alcuni principi su cui ci dobbiamo basare per fare la diagnosi. La diagnosi sta in piedi su quattro cardini, cioè su quattro paradigmi, quattro momenti che io ora vi dico. Innanzitutto sulla necessità di muovere gli arti, più o meno associata a disturbi tipo formicolii piuttosto che sensazione di bruciore. Il secondo parametro che noi dobbiamo considerare è il fatto che con il movimento questi disturbi si risolvono o comunque migliorano notevolmente. Il terzo parametro che dobbiamo considerare invece è che peggiorano con il riposo, e il quarto è che sono più evidenti nelle ore serali e notturne, creando una situazione, come ha detto lei precedentemente, di disturbo del sonno, di disturbo della qualità del sonno, e quindi una possibilità di avere altre condizioni cliniche come la depressione, per esempio. Professore, si legge in giro nel web che tra la sindrome delle gambe senza riposo e il Parkinson, o meglio un pre-Parkinson, ci potrebbe essere una relazione. Che cosa c'è di vero? Allora, anche qui è necessario che io faccia una premessa per cercare di capire molto bene. La sindrome delle gambe senza riposo è una sindrome, quindi ve l'ho detto prima, quattro segni, questi fanno la sindrome. Detto questo, ci sono delle condizioni primarie che si chiamano idiopatiche, di cui non si sa la causa. La parola idiopatica in medicina si usa quando non si conosce la causa. E poi vi sono delle forme secondarie che sono correlate a diverse patologie, la più importante delle quali sono la carenza di ferro, l'anemia di fatto, e quindi il genere femminile è più colpito del genere maschile, la malattia di Parkinson, l'insufficienza renale, il diabete, alcune neuropatie periferiche e alcune malattie immunologiche. Perché? La sua domanda è precisa. C'è una correlazione tra malattia di Parkinson e sindrome delle gambe senza riposo? Da un punto di vista dello studio delle cause, sono implicati due meccanismi: la carenza di ferro e la riduzione della dopamina. La dopamina è un neurotrasmettitore, quindi, che è coinvolto nel movimento, e la sua carenza è la malattia di Parkinson. Qual è la relazione a questo punto? Nella sindrome delle gambe senza riposo, il ferro, il metabolismo di ferro è alterato, c'è un basso ferro. Perché la correlazione? Perché il ferro è implicato, è un cofattore importante nella formazione di un precursore della dopamina, la levodopa, che noi utilizziamo nella cura della malattia di Parkinson, ma che serve anche per curare la sindrome delle gambe senza riposo. Quindi questa è la relazione. Grazie, perché è una relazione che torna spesso e che preoccupa molto. Grazie per questa spiegazione così chiara. Adesso andiamo ai mercati. Stiamo parlando di segni e sintomi, che per capire un po', no, il limite tra una situazione patologica e una situazione normale, fisiologica, e quindi che non deve creare sospetto. Subito dopo i mercati parleremo invece di segni che possono lasciare il segno. E quindi attenzione, ci sono dei sintomi che ciascuno di noi deve conoscere, individuare precocemente. Ne parliamo tra poco con il professor Agostoni. Invesco, per i tuoi risparmi, investi con noi. Vi presenta Cuore e Denari. Tornati insieme dopo gli aggiornamenti di borsa. Deborah, i mercati danno dei segnali, sono dei molto chiari, molto direi chiari. Da ieri, sì, infatti. Noi invece parliamo di sensazioni sfumate, spesso difficili da interpretare con chiarezza. Per questo oggi abbiamo chiamato un mega espertone, abbiamo un grande medico con noi, il professor Elio Clemente Agostoni, che è direttore della neurologia stroke unit all'ospedale Niguarda Cagranda di Milano. È infatti, professore, molto difficile fare chiarezza, no? Fare informazioni su questi sintomi e su questi segni che tendiamo o a sottovalutare oppure ci allarmano troppo. Lei l'ha fatto con grande chiarezza. Noi spesso diamo la colpa al freddo, allo stress, poi pensiamo alla circolazione, alle posture viziate, alla stanchezza, a uno scherzo della mente. Cerchiamo di vederci chiaro. Abbiamo Giovanni da Roma, buongiorno, benvenuto. Ah, buongiorno a tutti, buongiorno. Senta, io ho una richiesta molto semplice. Prima di vediamo tutto, perché sa, noi diciamo. prima sentiamo di tutto, cosa dice il professor Agostoni, se è semplice o difficile, ma proviamoci. Benissimo. Allora, io soffro di crampi notturni che faccio regolarmente passare con una borsa di ghiaccio, ma non è questo il mio problema. Il problema è che alla caviglia sinistra e alla piega fra coscia e bacino io a volte ho delle sensazioni di bruciore intenso, come fiamme proprio, che passano dopo alcuni minuti e spariscono senza lasciare tracce, ma ogni tanto periodicamente tornano. Non so cosa sia, non sono mai riuscito a capire cosa possano essere. Professore. Innanzitutto sono bilaterali, cioè interessano tutte e due gli arti inferiori? Allora, le due pieghe fra femore e bacino, sì, tutte e due contemporaneamente, mentre per i piedi solo il piede sinistro. Senta, lei ha il diabete? No. No, va bene. Allora, i suoi disturbi hanno una difficile correlazione tra quello che lei ha spiegato e l'anatomia. Questo non vuol dire che non esistano, naturalmente non vuol dire che non abbiano una loro strutturazione. Esistono per esempio alcune condizioni, una che si chiama meralgia parestesica, quindi disturbi molto alti che riguardano la coscia, sono più frequenti nelle donne, però potrebbero esserci anche nell'uomo. Ora, dare una risposta precisa non si può fare, certo, nel senso che bisogna, come ho detto all'inizio, anche visitare i pazienti. Però è chiaro che se questo disturbo continua nel corso del tempo, lei ovviamente deve rivolgersi a suo medico innanzitutto e cercare di capire con degli esami appropriati, per esempio, ripeto ancora, l'elettromiografia e la velocità di conduzione, che studiano i nervi periferici, se c'è un problema neuroperiferico. Allora, professore, ci sono invece dei segnali che tutti noi dobbiamo conoscere e saper interpretare senza la minima esitazione. Sono i sintomi dell'ictus, è una patologia, ne abbiamo parlato tante volte, complessa, che si presenta spesso in modo molto chiaro e in cui la rapidità dell'intervento fa la differenza. Intanto sappiamo che è un evento che, come dice il nome, può irrompere nella nostra vita in pieno benessere anche all'improvviso, ma ci sono dei fattori facilitanti. Vogliamo ricordarli? Ci aiuta, professore? Assolutamente sì. I fattori facilitanti nascono con noi, nel senso che sono i cosiddetti fattori di rischio non modificabili. Noi, quando parliamo di fattori di rischio, dobbiamo costruire il nostro ragionamento proprio su questo principio. I fattori di rischio non modificabili sono la nostra età, la nostra razza, il nostro sesso, e questi sono i tre principali qui, e la nostra familiarità, questo è un altro elemento importante. È chiaro che se una persona ha già una familiarità per un ictus, è un soggetto più a rischio di un altro. Se una persona è di razza non caucasica, meglio, è di razza asiatica, ha molti rischi in più, perché sono più frequenti alcune condizioni come le stenosi intracraniche, le stenosi delle arterie, quindi i restringimenti delle arterie intracraniche. E questi sono i fattori di rischio non modificabili. Perché parlo di questo? Perché la medicina si deve muovere considerando i fattori di rischio non modificabili per costruire dei programmi di prevenzione sugli altri fattori di rischio modificabili, certo, che possono intervenire e che sono l'ipertensione arteriosa, il diabete, l'ipercolesterolemia, le cardiopatie aritmiche, in particolare la fibrillazione atriale. Qui è molto importante fare questa distinzione. Noi abbiamo due, nell'ambito dell'ictus ischemico, quindi di un infarto, quindi di una chiusura di un'arteria intracranica, abbiamo due condizioni che possiamo descrivere in modo generale. Uno è l'embolia di provenienza cardiaca, e qui la causa maggiore è la fibrillazione atriale, un'aritmia cronica che coinvolge soprattutto persone, diciamo, dai 55 anni in su, ma non esclude anche altre. Quindi parte dal cuore e arriva al cervello. Parte un embolo dal cuore e arriva al cervello e si ferma in un grosso vaso o in un vaso. Ecco. Dall'altra parte ci sono ipertensione, diabete, colesterolemia, fumo di sigaretta, eccetera, eccetera, che sono invece responsabili della aterotrombosi, quindi della formazione di una placca all'interno di un'arteria, e che è che ha una progressione e che può essere, da un punto di vista clinico, preceduta anche da attacchi ischemici transitori. Quindi l'ictus può essere preceduto da attacchi ischemici transitori. Che è un mini ictus. Mentre invece l'embolia è tutto nulla. Avviene in pieno benessere durante la giornata, mentre invece l'ischemia legata ad aterotrombosi è più frequente al risveglio nelle ore notturne. Professore, a differenza del dolore toracico, che anche nell'immaginario collettivo accende subito una lampadina, no? E rimanda alla possibilità di un infarto in atto, i segnali dell'ictus e del TIA, che abbiamo definito un mini ictus, non sono stati ancora metabolizzati, diciamo così, dall'opinione pubblica, no? Il problema è diffuso, e ho letto che un gruppo di ricercatori dell'Università del Michigan ha chiesto in un'intervista telefonica come si sarebbero comportati gli interlocutori davanti ad alcuni ipotetici scenari. Un amico o un familiare che improvvisamente fa fatica a parlare, ha la vista annebbiata, perde la sensibilità o sente intorbidito una parte del corpo, oppure ha la febbre alta, si fa male a una gamba. Ebbene, degli oltre 4.800 cittadini che hanno risposto, poco più di uno su quattro ha riconosciuto i casi riconducibili ad un possibile ictus, e una percentuale ancora minore ha reagito, cioè ha dato una risposta corretta sull'intervento che era necessario adottare. Allora, ci aiuta a fare un po' di informazione, quindi a raccontare ai nostri ascoltatori quali sono quei sintomi su cui ciascuno di noi, se li prova, se li vede ad un familiare, ad un collega, ad un amico, ad un parente, non deve stare lì a tentennare, ma deve subito riconoscere. riconoscere che è il caso di fare veloce? Anche in questo caso occorre assolutamente semplificare, perché è chiaro che tutte le persone non esperte, non addette ai lavori, devono sapere riconoscere questi sintomi, quindi abbiamo bisogno di semplificarli, ma è abbastanza semplice. Allora, la prima cosa che bisogna guardare è se esiste un disturbo della parola, del linguaggio, e questo si capisce per chi conosce una persona, ma anche per una stante casuale che passa per la strada. La persona parla male, sbaglia le parole oppure non riesce a denominarle, questo è un problema. La bocca storta, quindi la deviazione della rima orale, sì, che si può elicitare semplicemente facendo sorridere la persona, e l'arto superiore che cade, che si può elicitare facendo semplicemente distendere le braccia. Ci vuole meno di un minuto per fare questo. Braccia e anche gambe, professore. Anche gambe, però per strada ci accontentiamo, certo, del braccio. Delle braccia. Quindi di fronte a questi segnali non bisogna perdere tempo. Vi diciamo perché e subito dopo che cosa fare, ma prima ci sono le informazioni sul traffico. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Cuore e Denari. Siamo tornati oggi insieme a noi il professor Elio Clemente Agostoni, direttore della neurologia Stroke Unit all'ospedale Niguarda Cagrande. Stiamo parlando dei segnali, dei sintomi dell'ictus e anche del mini ictus, è il TIA, che passa sempre un po', no? Non viene considerato perché è breve e quindi tutto ritorna nel giro di pochi minuti come prima, e si pensa erroneamente che sia solamente un disagio passeggero. Attenzione, perché il mini ictus è una avvisaglia, professore. Non solo una avvisaglia, è il fattore di rischio più importante per l'ictus. Si è visto da lavori scientifici, quindi in questo caso evidenze della letteratura scientifica, torno all'inizio della mia premessa, si è visto che un attacco ischemico transitorio può essere seguito da un evento maggiore, quindi un ictus importante, in una percentuale elevatissima di pazienti, quindi nell'11-17% a seconda delle casistiche dei pazienti che hanno avuto un attacco ischemico transitorio, un TIA, a distanza di 48-72 ore. Quindi è fondamentale fare la diagnosi subito e mettere in moto la macchina diagnostica per cercare di capire qual è la ragione dell'attacco ischemico transitorio. Allora, di fronte ad una persona che ha i sintomi che abbiamo descritto, non bisogna perdere tempo. Ma che cosa bisogna fare, professore? Lei considerato l'inventore del codice ictus, no? Che è riuscito quindi a organizzare un piano per intervenire subito, e quindi questo richiede un'organizzazione molto capillare. Qual è il messaggio che vogliamo dare agli ascoltatori? Il messaggio più importante è che appena esistono quei segni e sintomi che ho descritto prima, disturbo del linguaggio eccetera, bisogna chiamare il 118, non prendere e trasportare autonomamente il paziente. Perché questo? Perché in tutti gli studi che abbiamo fatto abbiamo visto che il trasporto con il 118 correla con una tempistica decisamente inferiore rispetto al trasporto in autopresentazione. Ma non solo, il trasporto col 118 garantisce anche un percorso intraospedaliero molto più rapido, quindi una serie di operazioni conseguenziali che portano il paziente alla miglior terapia in tempo e purezza. Seconda cosa, per il 118 deve applicare il codice ictus, perché abbiamo visto che la seconda variabile di sistema è importante, quindi chiamare il 118, applicare il codice ictus al trasporto e confermare il codice ictus all'ingresso dell'ospedale. Ebbene, questo ci fa migliorare notevolmente le performance. Quindi la sua osservazione corretta è: l'organizzazione è fondamentale per la migliore cura. In questo è il concetto che dobbiamo capire noi, e che stiamo capendo noi clinici, che l'organizzazione è solo l'elemento fondamentale per migliorare l'esito clinico. Se la intendiamo così, noi abbiamo risolto il problema con cose semplici, sostenibili anche da un punto di vista economico. Grazie professore per la chiarezza, perché l'informazione in questo campo non è mai troppa, dobbiamo diventare anche noi soggetti attivi della nostra salute, per cui recepire le informazioni, metabolizzarle, comprenderle, e medici come lei ci aiutano a farlo, perché ci fanno accendere la lampadina e metterle in pratica. Adesso ultima parte, così c'è anche il professor Agostoni e gli raccontiamo anche un po' l'iniziativa di Radio 24, la favola di Natale. Esatto, come anticipato continuiamo a scrivere la favola di Natale. Ogni giorno scegliamo i contributi più interessanti che vengono pubblicati sul sito di Radio 24, e il più bello tra questi verrà poi selezionato giorno dopo giorno per costruire una favola nella favola, scritta parallelamente dal nostro grande amico Andrea Vitali, con le musiche dei Salute Umana. Allora, gli ascoltatori che parteciperanno e scriveranno con noi la storia verranno avranno come restituzione una copia del libro con la favola di Andrea Vitali. Il podio di oggi è composto da Laura, Antonella e Sara. Tutte donne, ottimo. Magnifico, adesso sentiamo il contributo di oggi. Uno di dicembre, mamma, come son contento. Con due dita appendo il calendario dell'avvento. Tre re magi e tre cammelli stanno alla finestra. Quattro gatti saltano la zuppa e la minestra. La mattina del terzo giorno la renna Rudolf si presentò alla porta di casa di Babbo Natale. Prima di bussare ripassò mentalmente il discorsetto che si era preparata. Attraverso la porta sentiva uno scricchiolio, era il parquet che gemeva sotto i passi pesanti del babbo e la voce stessa del babbo che borbottava qualcosa di incomprensibile. Con un paio di lievi colpi di corna bussò e poco dopo Babbo Natale comparve. I due si guardarono per un lungo momento negli occhi. In quelli della renna c'erano le abetaie infinite dove trascorreva la maggior parte dell'anno. In quelli del babbo i sentieri del cielo che conosceva a memoria. Fu Babbo Natale a parlare per primo. «So cosa ti ha spinto da me», disse. «Temi forse che tu e le tue renne non riusciate a trascinarmi per i cieli, stante il mio peso?» La renna scosse le corna. Non era esattamente quello ciò che temeva. Piuttosto... La neve fiocca, loro... La state imparando, eh? La... Fiocca. Allora adesso andate sulla pagina delle iniziative, scrivete, fate scrivere anche i vostri bambini. Magari, forse è bello, no? Fate una favola di Natale collettiva familiare. Nel frattempo però dobbiamo ricordare che sabato e domenica, non essendo in onda, la favola prosegue sulla pagina, sulla nostra pagina attraverso Radio 24, troverete le pillole di sabato 5 e domenica 6. Mi raccomando, favoliamo. E anche se è festa, però poi noi torniamo lunedì, certo, e martedì, quindi ci siamo. E intanto, professor Agostoni, grazie per essere qui con noi. Gli apprezzamenti dei nostri ascoltatori che stanno scrivendo e ringraziandola per la sua chiarezza, per la sua pacatezza. Grazie. Grazie a lei. Il bacio della commissione. Esatto, è stato promosso. Grazie, ottimo. Buona giornata. Buona giornata a tutti, a lunedì.